dress up in black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab, I won't go. Grazie a Amy Winehouse, ci ha lasciato quest'estate, una brutta notizia dell'estate. E eccomi nuda senza sigla per oggi, per presentare questa nuova trasmissione che propongo dalle 5:15 fino alle 18 ogni due settimane, a parte che oggi condividerò questo spazio temporale con Spirito di Patata, in modo che potete avere un assaggio di queste due trasmissioni musicali di questo momento. Megaphonics, la musica vista dal cielo. Sicuramente questo nome non sarà senza ricordarvi quello piccolo paese gallese che resistava contro l'invasore romano. Vi ricordate di Asterix, Obelix? Ovviamente non sono plebiscitati a Roma come a Parigi, lo suppongo. Purtroppo di resistenza si tratterà. Resistenza che è stata sempre uno dei soggetti che ho voluto portare nelle trasmissioni musicali, perché sono presenti nelle molte delle canzoni delle donne. Resistenze che traspare dunque in molte canzoni, come quello del primo pezzo che vi propongo di oggi, di Shadia Mansour, che canta la libertà del suo popolo palestinese. لك كل بني آدم اللي شارك وبشطر عكل واحد اللي سمع حاله الصاحب لا يصادف فكر حاله شاطر انتو غير صادق قول ولا عالبال ولا عالخاطر انسيتو عديتو الايد اللي تعمدكو حملتكو لما كنتو بأضعف مرحلة بحياتكو انساكو هيدي مستحيل خدك يا وعدتك عملية همجية ما استفدتو منا حجي سياسية مخدرات تبيعو مننا الأطفال اللي ما عنده حد يحميله باب الدار الدولار أخمل من دم الأطفال ها اختصار لما أتذكر هنهار بتهلك الأعصاب دني بتطلع بخار بقول الله يسترني سقط هالنحس وضربني بفضل إنه الله يقبرني E siamo a 3.000 di altezza, miro sull'Europa e trovo al microfono di Mecafonix, sento il coro anarcofemminista di Stoccolma che denuncia l'omofobia, una delle tematiche che ritroveremo in queste trasmissioni che sono le fobie di tutti i spezzi, ma che sono i razzismi, i sessismi, le omofobie, le classismi, eccetera, eccetera. Up behind the bus stop in the toilets off the street, there are traces of a killing on the floor beneath your feet. Mixed in with the piss and beer, a blood stays on the floor from the boy who got his head kicked in a night or two before. Homophobia, the worst disease, you can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease, you can't love who you want to love in times like these. In the pubs, clubs and burger bars, breeding pens for pigs, alcohol, testosterone and ignorance and fists, packs of hunting animals roam across the town. They find an easy victim and they punch him to the ground. Homophobia, the worst disease, you can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease, you can't love who you want to love in times like these. E poi in qualche sia parte del mondo le femministe sono negate, i loro discorsi minimizzati, talvolta anche sono incarcerate, sono sotto processo ingiusto. E per ricordare tutte loro, vorrei riparlare un po' della situazione di Pinar Selek. Pinar Selek, femminista antimilitarista e attivista per la pace, una delle figure più rappresentative della Turchia, nonostante sia stata previamente ascolta ben due volte, sta essere nuovamente portato a giudizio. Il suo processo, che doveva essere fatto il 28 settembre, è stato di nuovo rimandato. E si continua la lotta di Pinar, che ha dovuto lasciare la Turchia per metterci al riparto della giustizia turchese che si diciamo l'harassment, diciamo, che continua a non lasciare Pinar Selek in pace e Pinar Selek a ritornare nel suo paese. Dopo questo coro di Stoccolma, ascoltiamo le voci delle compagne francesi che hanno, a proposito di Pinar, fatto e cantato questa bella canzone di supporto alla nostra compagna turca. Thank you. Ecco la canzone per Pilar delle compagne di Parigi. E poi ci sono le donne che urlano, che gridano, che non ne possono più della violenza di uomini contro le donne, che non ne possono più dello stupro, dei stupri collettivi, dei stupri di guerre, delle donne picchiate, delle donne negate, delle donne uscise dei femminicidi. Un'altra tematica che comunque tornerà sempre in questa trasmissione sono le voci di donne che lottano nelle nostre società, che reprimono le minorità, e per rappresentare, diciamo, questa lotta ho scelto di mandarvi un pezzo di... scusate, non lo vedo più da qua e non vorrei... sbagliarmi di notte. Esma, dove sei? sì, è la prima, eh? Esma, scusa. Sì, perché i popoli repressi comunque hanno anche molto possibilità e molto facilità a nascondersi per scappare dall'oppressione. Questo è un scherzo, ma comunque vi mando quel pezzo di Esma Radzepova che dedico a tutti i Rom di tutta l'Europa e di altri confini. Chevalier.

choisi de marcher avec la rage. Parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, l'ébullition, la rage. Voilà la rage ou l'essence de la révolution. Parce qu'on a la rage, on restera debout quoi qu'il arrive. La rage, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage, on pourra